Radio 24 Reportage. Lo specchio di Sanremo di Marta Cagnola. Sono stata sorpresa dei tre che sono stati eliminati, non pensavo, perché per me quando ha cantato Toto Cutugno mi sembrava che la canzone aveva una storia, aveva un senso, non che urlava e basta. Non di Toto Cutugno, oltre che bella quella di Toto Cutugno, i tre grandi. Da Marta Cagnola, benvenuti a Sanremo, dove l'Italia canta da 60 anni e da 60 anni si specchia nelle canzoni. Un'edizione, quella di quest'anno, che racconta di un paese diviso a metà. I giovani dei talenti da televisione, dei messaggi sui cellulari, dei video su YouTube e gli anziani che parlano tutt'altro linguaggio e vivono tutt'altra realtà e amano un'altra musica. Tutti grandi, perché tutti i tre che cantavano assieme, bravissimi. Ma è molto suggestiva la cosa, sì, insomma. Molto bravo. Quei tre lì sono stati bravi. Possiamo parlare della Clerici? Sì, sì. Che a me è piaciuta tantissimo, al di che da tutto che posso dire, cioè della grandissima, ha cambiato il festival. Onestamente ha cambiato il festival. A me la Clerici è piaciuta tantissimo. Sì, ma è lei, è stata lei, ha tolto queste scale, viva Dio che le ha tolte. Ha lavorato da sola ed era, va un po' e va un pochino, presa un pochino questa donna. È lei. E gli artisti tutti bravi. Mi è spiaciuto per le canzoni che sono state bellissime tutte, però le più adesso. Forse le più migliori gli hanno un po'. Migliori? È molto soggettivo, è molto soggettivo. Per tutte le volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore. Per chi vi è piaciuto ieri sera? Agata, Scanu, Agaria. Scanu, sempre sono Scanu. Scusa, e voi? A lei le è piaciuto, come si chiama? No. A chi ti piace? A lei le è piaciuta Risa. No. A te? Scanu. A me Sonora. Scanu, va bene, è un bravo uomo. È meglio che fate tutti quanti. Chi ti è piaciuto, Gianmarco? Non l'ho seguito. Noemi. Marco sono bravo. Mengoni. Mi sono piaciuti Sonora. Quanti anni hai, per curiosità? 17. Anche i ragazzi in gara per la nuova generazione parlano una lingua modernissima. C'è addirittura chi ha studiato negli Stati Uniti, canta in inglese e guarda al di là dell'oceano. Davanti a un caffè al bar del Teatro Ariston incontriamo Mattia De Luca, tradotto in italiano solo per Sanremo. Io sono nato e cresciuto con l'inglese. Ho fatto tutte le scuole fino all'università, sono andato in America. E sempre parlando inglese, e per me è proprio naturale la lingua inglese, e quindi purtroppo, no, per fortuna anche, perché così penso che si possono avere entrambe le cose probabilmente, e il mio album è prevalentemente in inglese. Ma tu come sei arrivato a Caterina Caselli? Guarda, ho fatto tutto un lavorone con Phil Palmer per un anno nella preproduzione del disco, abbiamo fatto veramente di tutto, ho scritto tutto l'album io e ci siamo impegnati tanto, e dopo 2 mesi che cercavamo di entrare in contatto con lei, che facevo, come si dice a Roma, le poste sotto l'ufficio di Caterina Caselli, e vai, no, non c'è, no, non si può, no, no, la signora non c'è. Beh, oramai mi attaccavano proprio, sentivano il mio nome, Mattia De Luca, boom, mi mettevano giù, praticamente la segretaria con la quale oggi ho legato tantissimo. Invece, e prima era un po' più così, un po' più complicato, e poi un giorno mi sono portato Phil Palmer a Milano e sono andato sotto il suo ufficio, ho citofonato, ho detto: sentite, io sono qua sotto, chiamate Caterina Caselli, ditele che sto sotto il suo ufficio con Phil Palmer. E la mia risposta alla segretaria mi ha detto: la signora le può dare semplicemente 2 minuti. Dico: guardi, anche solo 10 secondi della mia canzone. Vabbè, lo sfinimento paga. Senti, ma quindi la tua canzone di Sanremo è in inglese originariamente? Anche in inglese, si chiama Change. Where did I go wrong? I changed my life for you. I changed my days for you. And everything but sweet. Ooh. persino il contestatissimo Emanuele Filiberto confessa candidamente: io non ascolto mica la musica che ho portato a Sanremo. Non è il genere musicale che io ascolto. Io sono una persona molto più, diciamo, rock, amo il rock. Io da sempre ho ascoltato, quando ero bambino, dai Cure, ai Depeche Mode, agli U2, ai Rolling Stone. Però è una canzone che ha un testo molto personale per me, perché un testo veramente, una lettera d'amore per l'Italia, ed è quello che ho sempre pensato e sempre dichiarato quando ero in esilio e anche quando sono tornato. E poi c'è questa voce del tenore che è, diciamo, il mio subconscio, no? Come si dice? Il mio subconscio che dice: sì, stasera sono qui per dire al mondo addio, Italia amore mio, io non mi stancherò. Che è quella voce, diciamo, intoccabile, che è quello che penso io ed è quello che vorrei dare al pubblico, che non posso dare perché io di voce non ne ho tante. A me dispiace molto e voglio sinceramente scusarmi con gli altri artisti di quello che è successo, diciamo, come tra virgolette pubblicità nella mia partecipazione a Sanremo, perché mi rendo conto che ci sono giovani artisti veri, cantanti veri, che avrebbero bisogno di questa platea e che hanno bisogno di questa platea per farsi conoscere. E purtroppo, e dico veramente purtroppo, ma il caso non l'ho fatto io, ed è un gran peccato. Io credo nella mia cultura e nella mia religione, per questo io non ho paura di esprimere la mia opinione. Sì, stasera sono qui. Intanto sotto il teatro Ariston continua la caccia agli autografi e la folla attorno alla passerella degli artisti. Dare un giudizio, mi è dispiaciuto molto, per carità, inizialmente ero perplesso. La canzone di Pupo e del Principe, a me piaceva quella. Mi è piaciuto molto il testo di Cotugno. E venite qua per vedere il festival? E noi, io faccio un impresario come il mio collega lì, lui è molto più giovane di me. E veniamo qui, ma tutti gli anni, non so, senti le canzoni, ma non lo so, forse sarà perché noi abbiamo dei gusti un po' vecchi, che ci piace la canzone d'amore, la canzone che si ricorda. Adesso non lo saprei giudicare, anche perché sono i giovani che comprano i dischi. Quindi forse ci sono due mondi diversi. Oggi c'è il giovane, giovane, giovane, e quello di mezza età, quello che va a ballare. Però dire com'è il festival, giudicarlo, cioè non è sempre. No, dico sinceramente, le tre canzoni che hanno eliminato, cioè a me è piaciuto molto quella di Cotugno, molto quella di Pupo, anche perché è un gran professionista, quello è un signor musicista. Mi è piaciuto anche come ha cantato il Principe, Cioè non è che mi è dispiaciuto, il tenore è bravissimo. Ora credimi ancora, prendi un respiro, lasciati andare, datti la spinta per saltare. Talent show sembra un'espressione sconosciuta per questi signori attempati, ma cosa ne dice uno dei pochi over 50 che anche grazie alla TV riesce a farsi amare anche dai ragazzi? Cosa pensa Enrico Ruggeri dei Talent? Beh sì, oggi molti ragazzi vedono partire le loro carriere in questo modo, insomma non c'è nulla di male, tanto poi ci sono carriere che durano, ed è l'augurio che faccio a tutti i ragazzi che sono qua, e carriere che ahimè finiscono appena dopo essere cominciate, ma questo fa parte proprio delle leggi della vita. Ogni donna un paio d'ali chiuse dentro sé, certe ascese sconfinate, la notte delle fate. Eppure non tutto dipende dall'età, almeno la solidarietà generazionale non vale nel caso degli artisti. Prendiamo Nino D'Angelo e la sua chiacchierata in sala stampa. Non abbiamo voluto parlare ancora una volta delle polemiche su promossi e bocciati dalle classifiche, meglio concludere e salutarci con una risata. Non mi avete fatto una domanda sul Principe? Facciamo adesso. No, perché voi siete giornalisti intellettuali. Ti è piaciuta la canzone? La canzone del principe, non, ti giuro, prima non mi hanno fatto entrare alle prove. Quindi manca a noi. Quindi mi è capitato solo con Peter Gabriel. Cioè non si poteva entrare alle prove, questa cosa è troppo, una cosa troppo bene. Poi a un certo punto ha detto, vabbè, perché non la vogliono far sentire, sai, mi ha incuriosito come incuriosito. Poi ieri sentivo così, stavo un po', diciamo, no, ero stato comunque... mica era allegro, perché comunque come stanno poco così, non l'ho sentita bene, però un po' l'ho sentito. Allora a un certo punto, ogni volta con il principe dice, sentite prima la canzone, e la gente dice, è una giavola.